universo spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Mia Daschio su PA e Stefano W. Pasquini. You in my life, just give me back mine. I think it's about time you. There is a room in your life for more pairs of shoes. It's all about you, so you're only in love with yourself, obsessed with how well you're coming across. Get lost. Now I can see I was just starting to match with the person. Yeah. No, please. Why are you acting so cocky? You can meet like your chicks bounce like volley, 'cause I know tomorrow night at pillow talk time you call my phone popping and sounding all sorry. You were so silly acting all grubby, 'cause I just ain't another girl like me. Plus you ain't worth another girl like me. I can do way better than you, so don't worry. Now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, like you, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, ditch my boo, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, what I heard was nah, yeah. You're being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think you've been smoking way too much more. Cause you're being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. Before you get hit with, I suggest you just launch. Ci siamo, non ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo. You don't even know how to provide for your shit. Broke ass guys, I spent five on a chick. All my mates said that I had you with. Do I intimidate you? Cause I am the shit. Yeah, I am the lick. And you shall pipe down. Go make that real young and leave right now. If I could turn this argument right round, so baby stick your tongue out and bite down. You wear the ups and downs, ins and outs of your hair. I don't really care with the girl who works there, the what boots reduce the size of your derriere. I don't care how you think I should behave. I can't believe that I changed. You had me whipped and chained, but no more. Shut up and listen, I'm gonna flush you out my system. Flush, now I'm pulling the chains, always flush out my veins, out the drain. Flush, you're like, no more sink. You left skid marks, but the scars don't last. Flush, time to be me again. Flush, itch my boot, meet my friends. Flush, sorry love, what was that, all I heard was you're being too nice, too nice, too nice. You can't afford to be scorched. I think the biz smoking way too much bookers. You're being too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you flush. Chi abbiamo oggi come ospite? Shiva Bhakta. Wow. Buonasera. Buonasera. When we went Paris, remember that time? Yeah. I tried to do something nice, you just whine. I bought you champagne, but now you want wine. It's a real pain, just make up your mind. I made up my mind, you're wasting my time. You ain't got no right, you wait all the pies. Cause I know five guys who's waiting in line. So best you just slide and say your bye-bye. Inizio faticosissimo per me, perché non mi arrivavano i file. Eccoci qua, 404esima puntata. È tipo errore 404? Ma infatti, sì, infatti file not found, non avevo i file che mi servono per fare questa puntata. Come stai, Mia? Bene, sto benissimo, e tu come stai? Benissimo, però la puntata è tua, vai, introduci il nostro ospite e fai tutto quello che dovrebbe fare. Allora, intanto spero di aver pronunciato benissimo Shiva Bhakta. Perfettamente. Abbiamo qua un ospite che voglio fare invidia a tutti gli ascoltatori per raccontargli che ha una chitarra che non avevo mai visto prima. È quindi vero, la prima cosa che dirò è questa, che appena ho visto la sua chitarra ho detto wow, non avevo mai visto una chitarra così. Sì, è una chitarra con la buca mancante, ovvero tutte le chitarre classiche che diciamo quelle tradizionali hanno sotto le corde, hanno la buca, questa non ce l'ha ed è laterale, ce l'ho proprio sotto la faccia e quindi c'ha questo bel impatto. Poi magari mettiamo le foto sul sito. Però sì, è una chitarra molto particolare e avevo paura di non riuscire a poterla amplificare e invece riesco a fare anche quello, sono molto contento. Come si chiama quella chitarra? Ma guarda, devo andartela a guardare perché onestamente è di una casa produttiva un'attrice portoghese che non esiste più. Ah, fai ed è una Carvalho. Carvalho. Di, e non ti so dire proprio nient'altro. Perché... Una Carvalho con un buco di lato. Sì, sì, esatto. Sì. E se vai sul sito, io credo che non la trovi neanche più sta chitarra, perché l'ho comprata che praticamente. Oddio. Buongiorno, vien mangiando, buongiorno, vieni lavorando, buongiorno. Io sono con te, da Marco Roma. Mangiava è partito mangiando il nostro Marco Roma, fantastico. No, lui è Marco Roma che ci manda dei vocali tutti i giorni. Ah, d'accordo. Alla radio, per cui noi, no, e noi siamo la trasmissione che li trasmette. Per cui funziona così. No, Shiva Bhakta, allora cominciamo dal nome, no? Che, sì. Che, perché tu in realtà hai un nome molto più strano. Sì, io mi chiamo Lidio di nome, okay. Nome di battesimo ufficiale. E una cosa che ho, diciamo che da piccolo non hai idea di cosa possa significare il tuo nome. Poi con il tempo mi sono interessato alla musica, ho iniziato a suonare all'età di 10 anni e quando poi sono andato a scoprire che esistono dei modi musicali, ovvero delle scale su cui si costruiscono, no, le melodie, io appartengo al modo Lidio. Il modo Lidio, la scala del di do è do, re, mi, fa diesis, sol, la, si, do, che crea un effetto molto particolare, che ora non mi dilungo a spiegare. Si chiama Lidio, no? E si chiama Lidio. Il modo Lidio, sì, ma esattamente. Dai, è una cosa bellissima. Infatti. Nome completamente dato a caso, perché era il nome di mio nonno paterno, ah. E quindi ci sono stati due Lidio Chericoni contemporanei nella storia, e non credo che ce ne saranno molti altri. Anche perché... nonno paterno era musicista. No, per niente, era un operaio, però non, ecco, anche lì non sapremo. Sono quei nomi che davano. Alla fine dell'Ottocento, certo. Cioè, sono quei nomi antichi che erano, certo. Cioè, non lo so, nelle donne anziane, Imelda, questi cognomi, sì, sì, questi, certo. Nomi, no? E questo Lidio è venuto fuori, cioè il mio bisnonno si chiamava Otello, no, quindi capisci, cioè, è tutta una storia di nomi un po' particolari, ecco. E quindi sì, Shiva Bhakta, da dove arriva? Ecco, Shiva Bhakta, ve lo spiego. Cerco di fare molto velocemente. Okay. Nel 99 abbiamo messo su un gruppo che è durato una prova, okay. Dove praticamente suonavamo harsh noise con le chitarre che sbattevano contro gli amplificatori, cose molto rumorose. Ecco perché è durato una prova, perché poi non esisteva più niente. Ma un po' per quello, ma un po' perché era molto campato in aria, però... Ho detto, io cerco il nome per questo gruppo, e andai su non so quale dizionario enciclopedico avevo in casa all'epoca, e iniziai a sfogliare a casaccio, vidi Shiva, dissi, oh, che dio della distruzione, ho detto, cosa? Lui, è il mio. È lui. E poi nella sottocategoria c'era Bhakta, che vuol dire adoratore di... E quindi gli Shiva Bhakta sono gli adoratori di Shiva. E ho detto, bel nome per un gruppo, sì. Che però si è deflagrato subito. Si è distrutto, giustamente. E che si è distrutto. E 8 anni dopo, quando ho iniziato a fare le prime cose, io chitarrina e voce, che c'era ancora MySpace, certo. Io avevo 3 pezzi, però come mi chiamo? E lì ho deciso di riprendermi il nome che era andato così. Hai fatto bene a evaporare. Bellissimo. Adesso prendi anche in mano la chitarra, perché sì, suona bene, comunque Shiva Bhakta. No, suona benissimo, infatti. Anzi, adesso ascoltiamolo, così sentiamo che come suona, come suona. ti faccio ti sfruttiamo da subito. Sì, sì. No, anche perché è appena uscito un tuo disco che abbiamo presentato, abbiamo fatto sentire un pezzo che non dovevamo far sentire prima ancora. Quale? Prima ancora abbiamo fatto Shiza. No, va bene. Per prima ancora che dovesse uscire, però va bene. Shizanelion. È bellissimo. La faccio adesso. Ah, grande. Infatti, faccela sentire. Adesso io abbasso. Questo sono i Central Unit che erano venuti ospiti. Li stavo tenendo come sottofondo, ma adesso li abbasso. L'aereo sta per partire, per cui devi partire con Get Back. No, scherzo. Vai. Con Birthday. Esatto. Perché iniziava. Ok, levo le cuffie un attimo. Come preferisci? Okay. Ah, sì, preferisci senza? Sì. Così sì. Non ti senti. E... Si sente? Si sente forte e chiaro. Benissimo. Ok. Dai, sì. She's an alien, someone you should know. She's the darkness and the morning growth. She's the medicine of my solitude. She's so ahead that I can't afford. She's a masculine and so wonderful, and all the others, man, cannot fall in love. She might be my disease, and I saw the cure. She's an alien, but she's also pure. Fa un caldo pazzesco qua dentro. E non è ancora cominciata l'estate, pensa un po'. Sto grondando lava. Non ci sono ancora i ventilatori. È perché non è ancora. Io adesso, cioè, apriamo tutto un attimo. Dai. Potrebbe essere una sauna. Apri la porta. Apri. Prossima volta vengono infradito pantaloncini. Cioè. Esatto. Saperlo prima, guarda. Cioè, entriamo nel clima della bella stagione. No? Raccontaci di questo disco. Quando è uscito? Pochissimo tempo fa. Allora, il disco si intitola Sei Quarti of Love. A parte che ho sentito molte versioni diverse, praticamente è uscito il 6 aprile, perché sì, il 6-4 doveva uscire. Ah, certo, un infatti, disco un disco chiamato è un Six disco Four. Interamente scritto in sul tempo, no, di 6 quarti, cioè questo pezzo era in 6 quarti, questo pezzo in 6 quarti, ma dai, questo in 6 quarti non sono abbastanza musicale per capire, io non riesco, no, neanche io a capire veramente come si legge un, allora, sei molto quarti. Allora, vi faccio un esempio, molto faccio un esempio, come sarebbe questo pezzo se fosse in 4 quarti. Ok, molto faccio una strofina. Sarebbe così. Allora, 1, 2, 3. She's an alien, someone you should know. Ah, c'è un pezzo in più. She's the ok? Capisco. C'è questa. E se, sei quarti. E in sei quarti, come l'hai sentito ora? È she's an alien, someone you should know. She's the ok? È una differenza sottilissima, certo, che però ma cruciale. Diciamo che io non so cosa mi è successo a un certo punto nella testa, io ho iniziato a scrivere solamente su questo tempo di sei quarti. Ma già col disco precedente, che è una cosa completamente diversa, è una suite di 40 minuti sterminata, che non si ferma un attimo, quindi è un pezzo solo, utile per fare i soldi con le playlist, peraltro, vabbè, comunque, un pezzo di 40, vabbè. Ok. Però sì, diciamo che tutto questo disco è scritto in sei quarti. E diciamo che il sei quarti serve molto a uno intanto a scrivere melodie molto diverse, cioè nel senso che dentro la battuta di 4 la melodia è un'arcata che va da A a B, però in una battuta di 6 ci stanno più note, sì, oppure molte di meno. Diciamo che hai il baricentro continuamente spostato ascoltando un pezzo in sei quarti. Ah sì, perché infatti non ci stanno sei dentro un 4, cioè è un tempo dispari, esatto, nascosto dentro un tempo pari, infatti, perché 6 è dritto. È un po' come il 3, qua, wow, i Beatles quando alla fine mettono ta ta ta tre dentro un quattro quarti, no? Quando... Sì, ma quello è un'altra operazione ancora. Sì. Questa è un'operazione di quella che faccio io. Voglio normalizzare, voglio far diventare il nuovo quattro quarti. Il sei quarti deve diventare il nuovo quattro quarti. Secondo me ce la farai anche perché voglio dire, ormai siamo così pieni di roba già sentita che questo diventa nuovo, no? Diventa diverso. Cioè, quando si dice no, fare musica alternativa. Che si dice, vabbè, ma cosa vuol dire? Che cosa? Questa è alternativa. Io do l'alternativa al quattro quarti. Certo. Molto semplice. Comunque, certo. Io ti devo dare una notizia un po' triste: che questa puntata non è su di te, bensì è sulla Biennale di, è sulla Biennale di Venezia. Ma va bene, ma è giusto. Tu sei il nostro contorno musicale. Ma a va questo. Bene, ma cioè, ragazzi. Cioè. Scherzo. Siccome appunto c'è stata la Biennale di Venezia, ne abbiamo parlato brevissimamente la settimana scorsa. Questa settimana, esatto, questa settimana vi toccano 10 minuti sulla Biennale di Venezia, per cui ti puoi riposare la voce e ascoltare che cosa è successo la settimana scorsa quando salutiamo Giffo che ti ha fatto una domanda che però poi te la faccio offline. Parte? Chissà. Partito. È partito? No, ho sbagliato. È il 2 questo. Ed eccoci di nuovo tornati a parlare della Biennale di Venezia in questa seconda puntata che tratta appunto del latte dei sogni. È la Biennale di quest'anno curata da Cecilia Alemani che vede appunto un numero spropositato poi per modo di dire, ma finalmente un numero enorme di artiste donne, tipo su 200 artisti 180 circa sono donne, e dunque il padiglione, l'ex padiglione Italia, il padiglione che adesso viene chiamato aperto, entriamo e troviamo un elefante in scala 1-1 su un piedistallo di questa artista tedesca che si chiama Katharina Fritsch, e lei vince anche ex aequo, vince il Leone d'Oro alla carriera. È un elefante completamente realistico, diciamo, anche se il materiale si vede che non è di lattice eccetera, e Katharina Fritsch si distingue proprio per queste grosse sculture solitamente colorate in maniera molto pop. Devo dire che lei non mi ha mai fatto impazzire, pur avendo visto un paio di sue personali in giro per il mondo, potenti, ma non è molto vicino al mio sentire, mentre invece la Biennale parte virtualmente da questa stanza un po' sotterranea che è uno delle capsule del tempo, diciamo, delle capsule create all'interno di questa esposizione. Questa si chiama La Culla della Strega e ci fa vedere un po' di artiste, alcune delle quali erano quasi completamente sconosciute. Per esempio, io non conoscevo questa Benedetta era la moglie di Marinetti ed era un'artista anche lei, e ci sono questi disegni chiamati, che lei utilizza per illustrare la copertina di un suo romanzo che si chiamava Le Forze Umane, e appunto ci sono questi due disegni bellissimi dove ci fa vedere l'energia maschile e l'energia femminile. Dopodiché ci sono personaggi che non sono veri e propri artisti, come per esempio Josephine Baker, che è questa ballerina che è nata nel 1906 e morta nel 1975, che a 19 anni debutta sugli Champs-Élysées. Lei, se non sbaglio, è americana, sì, esatto, nata a St. Louis, che appunto va negli Champs-Élysées con uno spettacolo intitolato Revue Nègre, e lei appunto è la prima ballerina di colore a raggiungere un successo planetario. E dopodiché appunto, quando a un certo punto lascia la sua carriera dopo la Seconda Guerra Mondiale, si rifiuta di esibirsi davanti a un pubblico di soli bianchi, risponde apertamente alle minacce del Ku Klux Klan e partecipa alla marcia su Washington del 1963 al fianco di Martin Luther King. Ecco, interessante appunto vedere in una mostra d'arte anche trovare queste biografie e queste piccole chicche culturali che raccontano anche il tanto la lavoro che è stato fatto per l'emancipazione femminile, per i diritti sociali, eccetera eccetera. Poi naturalmente abbiamo Leonora Carrington, che è colei che ha dato il titolo a tutta la biennale, ovvero Il latte dei sogni viene da questo libricino illustrato che lei aveva fatto a casa quando doveva far dormire i suoi figli a Città del Messico, e dunque appunto scrive questo libricino con illustrato con queste immagini molto surreali, e anche il libricino, le storie sono abbastanza crude e abbastanza particolari. E poi appunto vediamo anche un po' dei suoi lavori surrealisti. Leonora Carrington, ricordiamolo, era stata compagna di Max Ernst, ventenne, a Parigi, dopodiché ha avuto un po' di vicissitudini ed è dovuta scappare, è arrivata a Città del Messico quasi casualmente, e lì ha trovato il suo modo di essere e ha continuato a dipingere in maniera surrealista per tutta la sua vita, fino a morire nel 2011 come una delle artiste più importanti del Messico, diciamo, pur essendo appunto inglese. Qui troviamo qualche, all'interno di questa capsula troviamo qualche suo quadro che appunto ci ricorda quanto fosse seminale il suo lavoro, non solo pittorico ma anche concettuale, diciamo. Ci sono un sacco di altri lavori interessantissimi all'interno di questa capsula. Adesso sto sfogliando il catalogo, tra cui appunto Meret Oppenheim e Carol Rama, per esempio, anche i collage di Valentin Penrose, che non conoscevo, sono veramente interessantissimi collage degli anni 30, e appunto vediamo quanto lavoro seminale è stato fatto da queste artiste che hanno influenzato le artiste e gli artisti successivi, perché per esempio Carol Rama io ci sono affezionatissimo, e già lei era stata presente nella prima stanza della Biennale, se non sbaglio quella curata da Caroline Christophe Bakargir. Non vorrei dire delle castronerie, ma sto andando a memoria. Un'altra capsula, tra una capsula e l'altra naturalmente noi troviamo un sacco di opere di artisti contemporanei, ma queste capsule sono interessanti. Per esempio un'altra di queste si chiama Corpo Orbita e racconta appunto un po' del rapporto di queste artiste con il corpo e con la geometria, e anche qua ci sono opere molto interessanti, che ne so, di Joanna Barnes, Mirella Bentivoglio, e tra cui anche alcune persone che sono, diciamo, degli artisti outsider. Per esempio ci sono alcuni malati mentali che hanno prodotto tantissima arte e che qui appunto la troviamo rappresentata, anche per ricordarci come i disturbi mentali possano portare a una creatività veramente potente. È interessante per esempio anche il racconto di questa Eusapia Palladino, nata a Minervino Murge nel Regno delle Due Sicilie nel 1854 e poi morta a Napoli nel 1918. Dice il catalogo: il 19 agosto 1888 settimanale culturale Fanfare Fulla della Domenica pubblica una lettera dell'imprenditore spiritista Ercole Chiaia, che invita apertamente il noto medico e criminologo Cesare Lombroso a considerare l'attendibilità dei prodigi di Eusapia Palladino, un medium pugliese. Nell'articolo Palladino è descritta come una donna di 30 anni che, legata a una sedia, è in grado di muovere oggetti, levitare, comunicare con i defunti o farli manifestare tramite particolari effetti sonori e visivi. Lombroso accetta la sfida di Chiaia nel 1890 e dopo aver assistito a numerose dimostrazioni in cui Palladino evoca addirittura il fantasma di sua madre, si dice costretto a rivedere le sue convinzioni. Nel 1909, nel trattato Ricerche sui fenomeni ipnotici e spiritici, il medico classifica le doti eusapiane in base alle loro caratteristiche meccaniche o fenomeniche, fornendo abbondante materiale fotografico, incluso le immagini di alcuni calchi su cui appaiono le impronte di mani o volti impressi su una tavoletta di creta nel corso di alcune sedute che riscuotono l'immediata attenzione del mondo dell'arte. Infatti poi le troveremo in mostra e devo dire che sono veramente, veramente dei piccoli oggetti ma molto potenti. Sono in molti a ritenere che i poteri di Palladino coincidano con dei lampanti giochi di prestigio e i detrattori si sfidano nel tentativo di smascherarla. Dopo una serie di pubbliche derisioni e qualche infuocato articolo di giornale, la medium decide di ritirarsi a vita privata e muore a Napoli nella più totale indifferenza. Ecco, anche questo è un piccolo episodio che devo dire che il rispolverare queste cose è molto interessante da parte della curatrice. Il padiglione prosegue con un sacco di lavori interessantissimi. Adesso sicuramente è da citare Paula Rego, che è questa pittrice portoghese che in Inghilterra è molto famosa. In Italia devo dire che si è vista veramente pochissimo e ha una stanza intera che è veramente potente. Lei è una pittrice figurativa anche di una certa tradizione, un po' vicina, che ne so, ai lavori di Lucian Freud, eccetera, e comunque di una certa figurazione inglese che devo dire che in Italia ha sempre preso poco interesse, ma quella stanza lì è veramente potente e merita sicuramente una visita. Il padiglione continua con opere anche opere storiche, che ne so, troviamo dipinti di Sonia Delaunay, ma troviamo anche dei giovani artisti, tra cui per esempio Sara Enrico che fa questi calchi di cemento colorato, di cemento pigmentato, di questi abbigliamenti antropomorfi, e il lavoro è decisamente interessante. Cioè lei è del 1979, sicuramente un artista che merita di essere seguita, un'artista italiana che merita di essere seguita. Un'altra capsula si chiama Tecnologie dell'incanto e troviamo alcune artiste dell'area cinetica, che ne so, Laura Grisi, Nanda Vigo, artiste che un po', diciamo, sono state un po' dimenticate in questi anni, ma sicuramente interessante. Poi naturalmente non mancano anche i lavori di forte impatto erotico, emotivo, eccetera. Per esempio mi viene da citare questo o questa, perché francamente non so se è un maschio o una femmina, Sidsel Meinesh Hansen, che viene dalla Danimarca, che appunto fa delle sculture antropomorfiche che hanno per esempio che assomigliano un po' alle bambole erotiche. Infatti dice il catalogo: molte delle sculture di Hansen seguono una logica simile a quelle delle sue bambole digitali. Daddy Mold, lo stampo vuoto di vetroresina di una sex doll in silicone, e Untitled Sex Robot del 2018, una marionetta snodabile di legno, incarnano la funzionalità fisica umana pur preservando la loro condizione di oggetti. Come i corpi tecnologicizzati che popolano i video di Hansen, arte, sesso e prodotto sono intrinsecamente legati. E in effetti anche nell'arsenale ci sono alcuni artisti che mettono in discussione questo aspetto, no, di dove sta andando il nostro corpo all'interno della nostra evoluzione tecnologica. Questa artista polacca, Aneta impronunciabile Grzesikowska, utilizza il corpo, il proprio e quello di altri, come materiale per mettere in discussione le norme sociali che circondano l'identità e la rappresentazione. Ecco, in questa serie di fotografie lei per esempio ha fatto un calco di silicone del suo busto e ha fatto una serie di fotografie all'interno della natura con sua figlia che interagisce con questo calco, e sono veramente surreali, potenti, ma anche molto lugubri, macabre, eccetera. Sono foto veramente, veramente interessanti e veramente potenti. Tra l'altro, appunto, io volendo pubblicare alcune foto della Biennale su Facebook sono stato bannato per 24 ore proprio per aver pubblicato uno di questi busti, perché appunto contiene i seni femminili, e naturalmente l'algoritmo di Facebook non riesce a capire quando si tratta di una scultura o di autentici seni femminili. Poi vabbè, lì si potrebbe aprire tutta una parentesi rispetto al mondo della censura, dell'algoritmo censorio dei social network di oggi, ma è meglio non entrarci. Cook so per dare nuovo slancio al tuo business. Direttamente a casa tua. Cox spaziale. Non ci sono più suoni nuovi. Eccoci, cosa ci dice Shiva su questo? Non ci sono più suoni nuovi, ma ci sono in sei quarti. Ci sono quelli vecchi, però in sei quarti. È un po' come i graphic designer, no? Tu scrivi delle gran cazzate, però in elvetica. Esatto. Vabbè, nel mio caso, sì, sono suoni, i miei sono suoni vecchissimi. Sono suoni vecchissimi, ributtati in un ambiente sonoro. Io dico nuovo, non è nuovo, però diciamo che è un contesto musicale inesplorato del sei quarti, sì, perché adesso faccio un breve preambolo. Non è che sono l'inventore del sei quarti, però dei tempi strani, come si suol dire, che sono stati utilizzati nella storia, specialmente a partire dagli anni 60 e 70, il progressive, la musica che si faceva in quegli anni lì, è quella che ha esplorato per prima, no? Certi tempi cosiddetti strani, storti, il sette quarti, il sette ottavi, eccetera. Sono stati esplorati molto quei tempi lì, ma il sei quarti in particolare meno degli altri, forse perché era un tempo troppo dritto, poco snob, oppure diciamo poco ricercato, non lo so. Brutto anatroccolo dei quarti. Ma, diciamo che se si va a vedere nella storia non ci sono tantissimi pezzi, tantissime canzoni. Poi basta andare su YouTube, ci sono i filmatini, i video dove si dice canzoni che usano il tempo in sei quarti e c'è tutta una rassegna, sì, certo, canzoni che usano il tempo in sette, e se vai a vedere non ce ne sono tantissime, e a me questa cosa mi ha interessato molto ulteriormente poi. Certo. Il discorso era partito dai suoni, sì, e i miei sono suoni molto vecchi, però speriamo di dargli nuova linfa in questo modo qua. Speriamo. L'angolo della menzione. Oggi il tempo oggi è veramente tiranno. Tempo fugit. Per cui erba volant. E siccome ci sono un po' di. Dove sono i miei occhiali? Ecco, ci sono un po' di. Ci sono cominci un po' tu di, comincio io. Comincio io. Domani, il 3 maggio alle 21 al Teatro Comunale Laura Betti, abbiamo il giovane corsaro Pasolini da Bologna, una docufiction con la voce di Neri Marco Re. E ingresso gratuito. E poi naturalmente sul nostro sito www.coxospaziale.blogspot.com trovate il link per andare a vedere. Giovedì 5 maggio invece dalle 17 alle 22 Testa Carbonara di Francesco Bocchini. Il giorno 5 maggio alle ore 17 inaugura negli spazi di studio Cenacchi Arte Contemporanea in via Santo Stefano 63 Testa Carbonara, la seconda personale di Francesco Bocchini presso la galleria. La mostra si avvale del testo critico e della curatela di Beatrice Buscaroli. L'esposizione riunisce i più recenti tra gli ormai conosciuti lavori chiamati meccanismi a parete o a basamento, dove l'artista coinvolge il pubblico invitandolo a interagire con la sua creazione, a farne parte e realizzando così ciò che Bocchini ci chiede, dar vita a ciò che è inanimato. In via Santo Stefano 63 a Bologna. Olè. Poi invece giovedì comincia una super mostra che si chiama Cross Collection, collezioni a confronto, a cura di Leonardo Regano e Francesca Passerini, e questa è al non ho scritto niente, fantastico, è alla raccolta Lercaro, fortuna che l'ho letta io perché tu non avresti non so se leggere tutti i nomi degli artisti che ci sono, comunque magari leggo qualche nome, ma ci sarà Arienti, Aero, Andreotta Calò, Francesco Arena, Vanessa Bicros, Vedova Mattei, Flavio Favelli, Anna Franceschini, insomma un sacco. Kiki Smith, è vero, Nico Vascellari, Luca Vittone, eccetera, e anche Eva Marisaldi, insomma un sacco di artisti da non mancare. E questa è alla collezione, no scusate, alla raccolta Lercaro, che è in via Rivareno, non mi ricordo il numero perché non me lo sono scritto. Lo troveremo su www.coxospaziale.blogspot.com. Anche qua ci sono un sacco di artisti, vai tu. Allora, venerdì 6 maggio alle ore 18 The Soft Parade a cura di Marcello Tedesco, e, una collettiva con Sergio Avveduti, Kenghiro Azuma, Valentina Daccardi, Flavio Favelli che è stato... No, lei che leggeteli tutti. Esatto, leggeteli tutti. Eva Fischer, Nicolò Morgan Gandolfi, Marina Gasparini, Esther Grossi, Corrado Levi, Iari Miele, Sabrina Muzzi, Luigi Ontani, Chiara Pergola, yeah. Salutiamo. Infatti, Andrea Renzini, Martina Robert, Antonio Violetta. Antonio Violetta. Il titolo The Soft Parade allude all'omonimo album dei Doors, uscito nel 1968, in cui la frase dello stesso Jim Morrison descriveva in modo poetico la variopinta umanità che popolava Sunset Boulevard. Basta. Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la Fondazione Rusconi, Arte negli spazi temporali, in via Giuseppe Petroni 22, ed è una roba nuovissima. Poi sabato 7 maggio dalle 17 presso Adiacenze verrà presentato il catalogo di Prospettive, la rassegna di residenze d'artista in Emilia Romagna realizzata dal 2020 con il contributo della regione. Sarà occasione anche per avere un'anteprima della nuova edizione del progetto, infatti gli artisti dovrebbero aguzzare le orecchie, che ruoterà intorno al tema arte, territorio e impresa, e dopodiché appunto potrete capire che cosa, come saranno i nuovi bandi di quest'anno. Questo è Adiacenze, naturalmente in vicolo Spirito Santo 1B, sabato dalle 17. E fortunatamente abbiamo finito qui, perché poi la settimana prossima ci sarà da impazzire, perché ci saranno, parte tutto, esatto, cioè ci sarà Art City. Infatti forse non facciamo nessuna menzione e vi diciamo giusto l'indirizzo del sito di Art City, così magari selezioniamo due o tre in modo, anche se vuoi, sì, no, due o tre in modo dadaista, così non facciamo nessun torto. Dopodiché adesso vi faccio una domanda a voi: cosa preferite? Volete 5 minuti di Biennale oppure volete un altro pezzo del nostro Shiva Bhakta? No, tutti e due, certo. Cosa volete per prima? Io voto Biennale. Però Shiva era pronto. Io voto Shiva Bhakta. Shiva l'ha detto caricando la sua chitarra. Siccome quindi siamo in tre, il tuo voto io è... Ho fatto, dai, facciamo Shiva che è qua pronto con, allora, la sua chitarra. Allora io chiudo la porta. Va bene. E abbasso i sento io. Ok, questa è una caramella pop da 2 minuti e mezzo, che è proprio a metà disco. Sarà il pezzo più sottovalutato, però a me piace molto e quindi la facciamo. Oh, si chiama Till Tomorrow. La dedichiamo anche, dai, a qualcuno. Dedichiamola a Giffo, visto che ci... Io non lo so se c'è mia figlia in ascolto. Ire, se ci sei, sentiti sto pezzo, tanto esatto, l'hai sentito un sacco di volte. È 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, for me. piaciuta tantissimo questa caramellina pop. Devo anche dire grazie così a Marco Gargiulo che ci ha spedito il tuo disco di lui di Metaversus PR che ha, ci ha spedito il tuo disco e dunque ti abbiamo ascoltato, ti abbiamo conosciuto, ti abbiamo portato in radio. Che sembra una stupidaggine, invece non lo è per niente. No, assolutamente, ragazzi. Ci sta. Bello, bene, bellissimo. Allora adesso finiamo con la Biennale di Venezia, cioè non finiamo perché abbiamo, non è che abbiamo tutto questo gran tempo, però facciamo Biennale e poi due chiacchiere. Esatto, Biennale, due chiacchiere e sigla finale, dai. Eccola. Ah, stavolta l'ho messo arte contemporanea, l'ho messo nel secondo parte. Il padiglione dell'Arsenale parte con Simon Lee che ha vinto il Leone d'Oro per il padiglione americano degli Stati Uniti e con questa scultura enorme che si chiama Brick House ed è appunto, sembra una scultura, cioè una scultura credo che sia di bronzo che ricorda le sculture africane ma in una scala veramente gigantesca e questa scultura era stata posta sulla High Line di New York, questo spazio in cui una volta passavano i treni ma che adesso è diventato una passeggiata all'interno di Manhattan e appunto questa scultrice costruisce tutto il suo percorso legato alla sua appartenenza etnica, diciamo. È la prima artista donna di colore che rappresenta il padiglione degli Stati Uniti era veramente potente perché da fuori sembrava una capanna, ti portava veramente in un mondo a metà tra l'antica Africa e il colonialismo, capito? La riflessione è tutta proprio sulle radici culturali che il colonialismo ha importato all'interno della cultura occidentale e in effetti questa tensione è veramente palpabile all'interno di quel padiglione, per cui adesso forse io non avrei fatto vincere il Leone d'Oro a quel padiglione. A me è piaciuto moltissimo il padiglione francese che affronta gli stessi temi in maniera leggermente diversa, un po' più cinematografica, un po' più teatrale, ma comunque sicuramente il padiglione americano era uno dei padiglioni più interessanti di questa biennale. Ho paura di essermi dilungato troppo, per cui l'unica cosa che posso consigliarvi è naturalmente di andare a visitare questa biennale. Ha bisogno di due giorni, avete bisogno di un giorno per andare a vedere tutti i padiglioni nei giardini della biennale e un secondo giorno per vedere sicuramente la mostra in Arsenale, che è molto lunga, e poi anche i due o tre padiglioni finali. Non mi divagherò sul padiglione Italia, che a me personalmente ha dato poco, alcuni hanno avuto giudizi stratosferici. Il lavoro di Gian Maria Tosati è sicuramente un lavoro importante, ma devo dire che secondo me ha un po' deluso le mie aspettative, come tanti altri lavori di altri. Vi lascio citando i nomi delle mie due artiste preferite che ho trovato nella parte espositiva delle corderie. La prima è Emma Talbot, del 1969, inglese lei, che fa queste installazioni dipinte abbastanza particolari, a metà tra il cucito e il dipinto, con un sacco di testi. Dice il catalogo: realizzato in un momento di profonda crisi e di una resa dei conti esistenziale nella carriera dell'artista, l'opera di Talbot, Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? Del 2021, affronta il desiderio di fuga avvertita dagli esseri umani nel comune presente di catastrofe climatica, mettendo in scena una critica implicita all'autoesilio di Gauguin nella colonia francese di Tahiti, dove è ambientato il dipinto. Talbot ricopre la propria opera con testi che sollevano interrogativi su cos'è la natura e su come o se vi si possa effettivamente fare ritorno in modo etico. L'altra artista che avevamo già visto alla Palazzina dei Giardini di Modena è un'artista coreana nata nel 1980 a Seoul Seul ed è Geum Jung Yong che fa queste opere. Il catalogo le definisce tecnocapitalismo, di critica al tecnocapitalismo. Ecco, lei fa queste opere costituite da apparecchiature a metà tra l'antropomorfo e il meccanico, che si muovono appunto e sembrano appunto dei pezzi di robot che, se inizialmente, dice il catalogo, se inizialmente possono sembrare robusti e funzionali, questi robot rivelano la loro fragile instabilità quando iniziano a muoversi. Jung infonde nei suoi giocattoli una goffaggine che evoca nell'osservatore umano il desiderio di coccolarsi, di coccolarli e prendersene cura. Crea così dei momenti di incontro fra l'umano e la macchina, che testano la nostra capacità di provare empatia per le entità non umane quando queste sembrano avere bisogno del nostro aiuto. In effetti la sua riflessione sulle nuove tecnologie e su dove andrà a finire il nostro corpo è veramente pregnante. Vi lascio appunto con queste due artiste da osservare attentamente quando andrete alla Biennale. Naturalmente il mio invito è quello di non mancare questa Biennale, che starà su fino al, se non sbaglio, l'11 novembre o comunque fino a novembre di quest'anno. Hai capito, per cui non vi mancate la Biennale. No, assolutamente. Tu cosa dici della ecco, della Biennale? Sapevo di questa domanda trabocchetto, ma c'era così poco tempo che io ho fatto un sacco di domande a Shiva e volevo una risposta su questo, quindi te lo risponderò la prossima volta. Perfetto. Quando ci toccherà parlare di Art City. Ah certo, assolutamente. No, volevo chiedergli un attimo quali erano gli altri strumenti che sapevi suonare, no? Cioè sì. Quale... Beh, diciamo che il mio primo strumento è il pianoforte, anche se è uno strumento con cui ho convissuto con amore e odio. Diciamo che per tipo 6 anni io ho smesso di suonare a tutto, in generale. Tra il 2000 e il 2006 io ho detto basta, non suono più. Quindi il pianoforte l'ho abbandonato, e quando l'ho ripreso non è come andare in bicicletta. Proprio per niente, ve lo garantisco, mi sono sentito... Sì, no, capisco benissimo, perché io ho smesso di dipingere per un decennio ed è la stessa cosa. Riparti e sei di nuovo in terza, certo, elementare, capito? Sì. Esatto. Quindi, sì, infatti sì. Quando poi ho ripreso, adesso, cioè, da quando poi ho ripreso, ora sono molto più bravo di come ero rimasto ai tempi. Però ecco, sì, suono il pianoforte... La chitarra, lo sentite, la suono un po' così. Nel disco ho fatto tutto, mm-hmm. Quindi pianoforti, basso, chitarre. I bassi sono molto semplici, no? Non sono un bassista e non lo sarò mai, però ecco, sì, sono un finto polistrumentista, cioè suono male un po' tutto. Siamo una grande famiglia, tra l'altro, c'è pieno di gente così come me. Pensavo siamo una grande famiglia nella tua testa, nel senso che le varie personalità che suonano gli strumenti diversi. Sì, ma c'è anche una famiglia nella mia testa. Okay. Sì, assolutamente. Ok, ho risposto, adesso puoi rispondere, certo, sulla Biennale. Sì. No, la Biennale avrei tantissime cose da dire in realtà, perché l'ho vista agli opening e mi sono persa alcuni padiglioni per le grandi file che c'erano. Sì. Padiglione Italia. Io mi sono perso il padiglione Grecia. Purtroppo. Anch'io. Mi ha detto che era molto bello. Io Grecia, Italia e Francia persi completamente. Francia era bello. C'era mi tocca di tornare. Mi tocca assolutamente ritornare per andare a vederlo, come anche tutti gli eventi collaterali che di cui avevo tantissima voglia di fare un salto. Certo. A Palazzo Grassi, alle Gallerie dell'Accademia. La mostra di Marlène Dumas è spettacolare, proprio. Una delle più belle mostre di pittura che si sono viste negli ultimi anni. Wow. Assolutamente. Infatti bisogna assolutamente tornare per vedere. E in Biennale non ho il mio preferito, sto ancora pensando a quello che ho visto. Ma Shiva, allora ci dicevi che stai hai una mezza idea di promuovere il disco con dei concerti. Sì, stiamo iniziando le prove in duo io con la chitarra e Enrico Pasini, lo nomino anche se voi non sapete chi sia. E però, lo salutiamo Enrico. Assolutamente, lui è un musicista che gravita in tutta la zona emiliana soprattutto. Ma lui lo sa, no? Che deve cominciare. Sì, sì. No, ma okay. Abbiamo, non è che lo impara dalla abbiamo, radio. Abbiamo, no, no, no. Ah. Abbiamo, okay. Aspetta, sono io. Abbiamo già iniziato, solo che okay. Siamo così, stiamo andando con calma perché comunque la stagione dei miei concerti eventuali inizierebbe a settembre-ottobre. Mm-hmm. Adesso stiamo promuovendo questo disco qua, lo stiamo facendo un po' sentire, così magari viene voglia alla gente di venire a sentire dopo. Certo. Perché a me piace questa cosa, a me piace che la gente prima ascolti i dischi e dopo si venga a beccare, no? Il tipo, certo, che glielo suona dal vivo. Non, anche perché scoprire un disco del genere con un concerto in duo è un po' riduttivo, purtroppo. Mm-hmm. Cioè, c'è tutto in un live in duo, così, perché comunque le canzoni sono canzoni e non pezzi. Differenza tra pezzo e canzone: nel pezzo l'elemento strumentale ha la stessa identica importanza dell'elemento vocale, e quindi tutto l'arrangiamento, la voce concorre, queste sono canzoni. Okay. Dove la voce primeggia, diciamo. Mm-hmm. Certo. Poi le ho molto arrangiate perché mi piace fare le cose molto ciccione, però sì, sono canzoni fondamentalmente, quindi uscire in duo può funzionare, quindi speriamo bene. E se qualcuno lo vuole comprare, dove deve andare? Attualmente da nessuna parte. Quindi non è comprabile. Attualmente però è uscito così. Ve lo ascoltate su tutte le piattaforme di cui avete conoscenza. Certo. Poi troverete fra l'altro i link su, esatto, coxospaziale.blogspot.com. Poi sì, quando inizieranno i concerti andrò in giro con i CD fisici. Addirittura. Con una che quelli ormai non si usano. Bello. Peraltro mi piace, però può essere autografato. Ci tengo, no, poi ci tengo molto perché io ho il mio illustratore personale che mi ha fatto le copertine, wow, di tutti e tre album. Ce l'hai nella borsa. si chiama Alessandro Di Sorbo e si occupa di, praticamente lui lavora, fa il grafico per l'editoria per bambini e ragazzi. Okay. E ha una sensibilità pazzesca. Io gli mando i preascolti dei dischi e lui se li ascolta due o tre volte e si fa il mondo. Si immagina. E se voi andate a vedere la copertina, l'artwork è pazzesco e quindi merita proprio di essere stampato anche in vinile, se proprio le cose andassero bene. Wow, sarebbe bello. Bellissimo. Anche se mi dicono che adesso stampare un vinile ci vuole più di un anno. Ci vuole più di un anno e un salario basso, non indifferente. Okay. perché è una spesa, è una, mm-hmm, spesa, e chissà come, cioè, se hai è strana sta cosa che ci sia più domanda che offerta, no? Cioè di solito, certo, è sempre il contrario. Ma non so se ho capito male che è finito il vinile, è finito, sì, nel senso è finito. La materia, sì, prima, sì, esatto, la materia anche prima. Ho capito questo, sì, sì, è incredibile, proprio non c'è più la materia prima. Poi io da non, recuperare. Non sono un acquirente di vinili, non sono, quindi non lo so, non, però ho sentito che il problema potrebbe essere materiale proprio. Hai capito, sì. Grande. Ok, quindi in CD avremo comunque la copertina illustrata. Sì, sì, no, non solo la copertina, è tutto un progetto grafico, è bravissimo, quindi io vi consiglio, andate a vedere Lavoro con Lentezza, si chiama il blog, lui si chiama Alessandro Di Sorbo, andate a vedere i suoi lavori perché sono veramente belli, delicati. Mi piace anche il titolo Lavoro con Lentezza. Perché mi piace è lento, molto. È lentissimo. Mm-hmm. Però lavora benissimo. Cioè, io quando a giugno dell'anno scorso ho visto la copertina del disco, ho detto ok, allora lo dobbiamo, perfetto, fare. Lo dobbiamo fare perché, certo, perché rappresenta proprio graficamente, con i colori e le forme, l'idea di quelle canzoni lì. Io ci rimango sempre molto stupefatto quando mi presenta le sue copertine. Fantastico, io ti ringrazio tantissimo Lidio, detto anche Shiva Bhakta. Io ringrazio voi. È stato un piacere averti, sì, qua. E in realtà se vogliamo, siccome non ci sono in Decoradio stanno le ragazze, da, sì, quando da quando le presentiamo sempre non loro vengono, non vengono, esatto. Per cui, cioè, se tu vuoi un'altra canzonetta ci sta, se vuoi, altrimenti sì, ci devo per chiudere così noi salutiamo e per chiudere la mettiamo così, con calma, che dici? Tanto dai, la pubblicità può anche aspettare 5 minuti, non succede niente, dai. Allora sto pensando a quale, sì, facciamo Facciamo così, facciamo. Allora, questa. Basta che non mi fai Sacrifice. No. Grazie. Non la faccio. Non la faccio perché la usiamo come sigla finale. Allora. Bene. No, anche perché ti devo. Mi piace come sigla finale. Anche perché devo sparare un po' con la voce e rischio di fare veramente ridere perché va abbastanza in alto. Invece, facciamo che faccio Bubble, che è il terzo. Se no, ci puoi anche fare una cover di Vasco Rossi. Se fai come credi. Non sono all'altezza. Vi faccio questa che si chiama Bubble, il terzo pezzo del disco. È una specie di soul alla Simply Red, ma in sei quarti naturalmente. Io abbasso la musica di sottofondo e chiudo la finestra così si passa Ryanair. Però ho visto che c'hai anche Bandcamp, uno non lo può comprare su Bandcamp. Ma digitale, io non faccio, cioè si potrebbe, però lo sconsiglio, cioè ascoltatevelo. Non c'è l'illustratore, non c'è la copertina. Non c'è la copertina, vabbè, dai. Non c'è il feticcio. Cioè un po' mi dispiace, qualcuno se l'è comprato, cioè nel senso è venuto, si è speso 20 euro per comprarmi dei file WAV. Io ho ringraziato. Dei file WAV, come se fossero un nulla. No, poi sono dei, mi sa che sono dei FLAC, okay. Che sono anche meglio. Poi sono meglio. Però sono sempre file, io se qualcuno vuole, ok, però vabbè, su un CD non è che ci sia tutto sto gran cambiamento. No, è vero. Però uno me lo chiede, gli mando l'artwork, si stampa la copertina, tanti auguri. Okay? Esatto, per cui se l'avete comprato su Bandcamp o se andate a comprarlo su Bandcamp, scrivete a me, a coxospaziale@gmail.com e io vi farò avere l'artwork, così potete... In digitale, infatti. Esatto, così hai tutto in digitale, ci sta. Bello. Molto bene, ti ringrazio di nuovo. E anch'io vi ringrazio. Grazie mille. Nuovo. Io ero Mia da Schio Supiei. E io Stefano W. Pasquini. E adesso naturalmente ci salutiamo con le parole del direttore, che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. La sigla che è appunto Sacrifice. Obla! Ah sì, sei tu. Vabbè. Naturalmente appuntamento a lunedì prossimo, sempre dalle 7 alle 8 con Coxo Spaziale. Wow.